yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Ooh, ooh. Yeah, yeah, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah, whoa, whoa. Whoa, whoa. Yeah, yeah, whoa. Yeah, yo. Oh. Je dois m'adapter à ce pour aller. Oh. Mais t'es patient.